Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di noi perché parliamo di comunicazione. Parliamo di uno dei nuovi scenari della comunicazione dell'era della costante attenzione parziale. Questo è il sottotitolo del libro McLuhan non abita più qui, con tanto di punto di domanda di Alberto Contri. Buonasera Contri. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Alberto Contri è uno dei maggiori esperti di comunicazione in Italia, ha una lunga esperienza nelle agenzie di pubblicità, è stato anche consigliere amministrazione della RAI, è stato presidente, responsabile di varie società che si occupano di informazione nell'ambito della cinematografia, nell'ambito della cultura, nell'ambito della pubblicità e peraltro da 17 anni presidente di Pubblicità Progresso. Allora, perché questo titolo, McLuhan non abita più qui, con tanto di punto di domanda, e che una gentile signorina in copertina, il libro edito da Borgati Boringhieri, che maneggia nello stesso tempo con le sue sette mani, sembra un serpente di quelli della mitologia, un tablet, un telefono, un telecomando e anche una tazzina di caffè. Perché McLuhan non abita più qui, Alberto Conte? Questo qui, diciamo, è una sorta di calambur fatto un po' per attirare l'attenzione. La verità è che McLuhan aveva coniato questo famosissimo aforisma negli anni 60, il mezzo è il messaggio, ma allora avevamo un solo canale televisivo sostanzialmente, quindi bastava dire l'ha detto la TV, qualsiasi certo. cosa avesse detto, non importava il contenuto, importava il mezzo, e poi tutti stavamo intorno a questo apparecchio, noi poi che siamo nati quando non c'era la televisione, no? Siamo stati testimoni di cosa è successo da allora, no? Quindi prima c'era la radio, poi la televisione, poi sono arrivati gli altri canali, poi via via. Pensate che oggi ci sono 1.150.000.000 di siti attivi in questo momento, probabilmente si stanno scaricando 2.500.000 di mail in questo momento, quindi 2.500.000.000, scusate, di mail in questo momento, per capire come c'è stato in un brevissimo tempo un'accelerazione spaventosa. E però a questo punto è successo anche un'altra cosa, che non puoi più dire il mezzo e il messaggio, ma devi dire la gente e il messaggio, perché oggi viviamo nell'epoca del cosiddetto virale, cioè anche le imprese comunicano a piccoli gruppi di popolazione che a loro volta si incaricano di comunicare ad altri, ed è questo un po' il meccanismo della comunicazione di oggi. Quindi non è più il mezzo e il messaggio, ma la gente è il messaggio. Già questo comporta tutta una serie di complicazioni di cui magari parliamo fra un attimo, ma certo. si accompagna a un altro problema molto grave che io ho riscontrato ormai da 15 anni, insegno anche in università, e mi sono reso conto che i miei giovani studenti, 22 anni, sono dediti a questo multitasking perenne, entrano in aula twittando, si siedono, aprono il computer, intanto fanno un'altra cosa, poi mi danno ascolto, poi guardano lo schermo TV, per cui mi è venuto in mente giustamente di mettere questa Dea Kali con sei braccia grazie a Photoshop che fa tutte queste cose. E ho battezzato questo atteggiamento l'era della costante attenzione parziale, perché questo modo di comportarsi che abbiamo visto essere oramai perenne, voi provate a guardare alla fermata di un autobus, certo. o su un autobus o un metro, dovunque sono tutti immersi nel loro smartphone, nessuno presta più attenzione all'ambiente circostante e tutti stanno twittando, consultando la propria posta, facendo varie cose. Però il problema è che lo fanno contemporaneamente ad altro. Allora, facendolo contemporaneamente ad altro, è ovvio, per esempio, che se uno sta guardando un programma TV e basta, presta tutta la sua attenzione, ma se sta guardando un programma TV e sta twittando qualcosa via Twitter oppure sta guardando il proprio iPad eccetera, vuol dire che presta una porzione della propria attenzione. Prestando una porzione della propria attenzione colleziona dei frammenti, e quindi poi quando sarà il momento si ricorderà dei frammenti, e quel che è peggio, perché che arriva dagli studenti, risputeranno dei frammenti. Ecco perché anche ultimamente è stato lanciato l'allarme del linguaggio frammentato e scorretto degli studenti universitari, ma che in realtà non è perché non sanno la grammatica, è perché sono perennemente distratti. Ecco, ma questo però dimostrerebbe che in fondo in mezzo è ancora il messaggio, nel senso che usando questi nuovi strumenti, e sono strumenti che aiutano la parcellizzazione, il mancato approfondimento, in fondo anche la banalità della comunicazione, una comunicazione che non è più professionale, ormai tutti sono giornalisti, tutti sono su Facebook, tutti sono su Twitter, quindi tutti fanno informazione, l'informazione si è destrutturata e quindi il mezzo ha la prevalenza ormai sul messaggio. Beh, Non a caso, un po' luciferinamente, abbiamo messo il punto di domanda, visto che tra l'altro la prefazione del libro è fatta da Derry De Kerckhove, che oltre ad essere stato uno degli ultimi allievi e il massimo studioso di McLuhan ai giorni nostri, lui dice nella prefazione che in realtà le predizioni di McLuhan si sono poi in realtà avverate. Infatti, anche in questo nuovo contesto che potremmo definire un ambiente. Però ecco, l'errore che fanno in molti è di considerare i social network piuttosto che il web come un mezzo. In realtà non è un mezzo, è un ambiente in cui si vive e bisogna conoscerne i linguaggi, bisogna sapere come abitarlo, come navigarci, per parlare in termini di appunto di surf, di navigare su questo mare. Certo. Questo naturalmente ha dei riflessi su tutta una serie di questioni, per esempio ha dei riflessi nei confronti degli editori della carta stampata, degli editori della TV, ha dei riflessi nei confronti delle imprese, ha dei riflessi nei confronti delle agenzie di pubblicità e ha dei riflessi appunto nei confronti dei cittadini / consumatori, perché come faccio io a attirare l'attenzione di questi signori o signorine o ragazzi che hanno o uomini fatti che ti prestano solo un sesto della loro attenzione? La cosa diventa veramente più complicata. Certo, infatti uno dei capitoli si intitola I fatali errori del sistema pubblicitario. Da pubblicitario di lungo corso, quali sono questi fatali errori? Alberto Contri. L'errore principale, che tra l'altro mi coinvolge anche direttamente, perché io allora dal 93 al 98 ero presidente proprio dell'Associazione Italiana Agenzie di Pubblicità, è stata quando le agenzie, un po' premute dai propri azionisti, sto dicendo le agenzie di pubblicità, si sono concentrate soprattutto sull'acquisto degli spazi, perché quello degli spazi pubblicitari dove mettere i contenuti, diciamo, perché quello era l'area in cui si guadagnava di più, si potevano ottenere extra sconti, si incameravano gli extra sconti che ti davano i concessionari e gli editori. E purtroppo negli anni la creatività e la qualità dell'idea, del progetto è passata un po' in secondo piano e quindi sono diventate più che altro dei rivenditori di spazi. Nel frattempo che cosa è successo? Che dato che le agenzie venivano pagate in proporzione, in una percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento, siccome l'ammontare dell'investimento sui cosiddetti nuovi media è molto minore, perché oggi costa molto meno, certo, mettere dei video su YouTube piuttosto che su Twitter, Facebook e compagnia bella. E allora se si viene pagati in proporzione, il dramma che emerge è che dal punto di vista proprio economico, visto il tipo di trasmissione che fate, è proprio dal fatto che magari tu devi mettere a lavorare 10 persone per un mese per fare un progetto di digital marketing molto articolato e poi te lo vogliono pagare con 4 noccioline. Dice: no, ma io come faccio? Dice: ma come, l'investimento poi per andare in giro e essere presenti è molto basso. E dico: sì, ho capito, ma quello che conta è la qualità del pensiero che c'è dietro, il lavoro che ci ho messo dietro. Ecco perché bisogna tornare. Adesso è una fatica risalire, perché negli anni le agenzie hanno quasi regalato la creatività dicendo: ma tanto io sono pagato dalla percentuale dell'acquisto spazio. E quindi questo magari è un discorso un po' tecnico, però fa capire come le agenzie si sono un po' impiccate da sole. Adesso è dura risalire. Anche perché i tradizionali mezzi di comunicazione, i tradizionali mezzi dove c'erano gli spazi, cioè i quotidiani da una parte, le riviste, ma anche la televisione, ormai sono sopravanzati da altri mezzi di informazione, che soprattutto i giovani seguono attentamente. Ecco, uno dei problemi di fronte a questi mezzi è che comunque ci sono due elementi che sono rimasti e che rimangono in fondo fermi, e sono la capacità delle persone. Il cervello della persona è lo stesso di 50 anni fa, e il tempo. Comunque noi abbiamo sempre solo 24 ore al giorno. Come con questi due elementi possiamo affrontare la novità di un miliardo e mezzo di siti web? Io ho tratto proprio questa questione perché mi sono dovuto informare, mi sono voluto informare attraverso le ricerche che si stanno facendo in tutte le università del mondo, nei laboratori di neurologia, e dove si spiega che, contrariamente a quanto pensa qualche illuso, la cosiddetta plasticità neuronale, cioè il fatto che il cervello dei giovani sia adatta, ma non è vero per niente, perché come hai detto giustamente, altro che 50 anni, il cervello che abbiamo in testa noi si è formato in 250 milioni di anni, e quindi non è possibile che in 10 anni sia così cambiato tutto, in 20 anni sia cambiato tutto. Non si è adattato per niente, ma sta subendo solo una sorta di patologia. Ecco, nel libro c'è una slide dove appunto si parla di un paradosso in cui si dice: sono aumentate in maniera esponenziale le fonti di informazione e diminuisce il tempo per fruirle. Come facciamo noi per capire. Ecco che torna fuori l'importanza di un lavoro editoriale. Io per esempio sono molto critico nei confronti per esempio dei siti dei grandi editori che hanno uno scroll, per dirlo in termini tecnici, sapete quando fai scorrere lo schermo per arrivare in fondo, di almeno 1,5 metri, 2 metri. Ma come? Io ho 5 minuti e come faccio a scegliere? No, allora salto e vado da un'altra parte. In più in mezzo ci mettono anche tutte le informazioni che comunque si trovano, e poi vogliamo parlare di informazioni, il sedere della Belen piuttosto che le tette dell'altra grande attrice. Queste sono delle commodity che si trovano comunque. E allora che cosa? Io mi ritrovo una paccottiglia mescolata di una quantità di cose, invece il vero lavoro editoriale, e alcuni lo fanno, è di presentarti un sito molto più corto, molto più stretto, con una selezione ben precisa di argomenti e poi con tutta una serie di sottomenu per andarti a cercare il resto. L'altra cosa che riguarda invece i più giovani, che sono appunto i miei studenti, che sono anche i vostri, i tuoi, è che loro non si informano più, non leggono più i giornali, guardano con un occhio sinistro un po' la televisione, non si informano in nessun modo. L'unico argomento, l'unica possibilità di informazione è se qualche amico ha messo un tema su Facebook, allora su quello vanno a fondo. Allora io per esempio farei un sito apposta solo per loro, fatto di poche notizie con dei titoli brevi che sono 5 righe e con un video sotto. Questo dovrebbe essere il modo per raggiungere questo tipo di pubblico. Potremmo dire ricominciamo dai fondamentali, perché in fondo i fondamentali del giornalismo sono chi, dove, come, perché, con chi, e quindi rispondere a queste semplici domande può essere già un'informazione che può essere utile. Ma l'informazione oggi meriterebbe un grandissimo discorso. Purtroppo, come dicevo prima, il tempo è anche limitato, anche nel nostro programma il tempo è quasi concluso. Io ringrazio Alberto Contri di essere stato con noi, avremo molte cose da dire. Un ultimo giudizio: comunque l'informazione ha un futuro, magari destrutturato rispetto al passato, però qualcosa da dire ce l'avremo sempre, Alberto Contri. Ma sicuramente, ma la tesi di fondo del libro è non solo per l'informazione ma anche per la pubblicità, che più si va in un'epoca di frammentazione, di complicazione, di difficoltà, più bisogna ritornare ai fondamentali, back to business, dobbiamo tornare a riflettere e a mettere dei contenuti di grande importanza, perché allora quella persona totalmente distratta, finalmente vedendo un contenuto interessante, si fermerà. Bella sfida, grazie Alberto Contri. Abbiamo parlato del libro McLuhan non abita più qui, punto di domanda, i nuovi scenari della comunicazione nell'era della costante attenzione parziale, edito da Bollati e Boringhieri, 208 pagine per 22 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.